Usciti dalla base, percorriamo Jalalabad Road, che collega Camp Invicta al centro di Kabul. Il warning di cui abbiamo parlato nel briefing prima della partenza, la minaccia che potremmo incontrare nel nostro percorso, è quella di imboscate, di attacchi degli insorti che potrebbero attaccarci con armi leggere o con razzi anticarro. Pantera da Bambino 4-1, inizio movimento, passo. Fammi sapere come muovete, passo. Sentito, Antonino? Ehi. All'interno del movimento, eh? Sì, a posto. Ok. Mezzo scout, uomini al centro, mezzo che chiude, passo. Ok. OK, va bene, procedete. La FOB di Musai è un avamposto militare degli italiani in una delle zone più calde della provincia di Kabul. La valle di Musai, piena di villaggi filo-talebani, è un punto strategico per gli spostamenti di uomini da sud e da est. Gli attacchi contro ISAF qui avvengono con fucili e armi controcarro, oppure con gli IED, gli ordigni improvvisati. I militari svolgono pattuglie, portano aiuti nei villaggi, osservano. Il primo caporalmaggiore Alessandro Lorusso del 41esimo reggimento di Sora Acquisizione Obiettivi ci mostra un Raven, un aereo senza pilota molto più piccolo del Predator. Osserviamo sempre dei settori definiti dal capitano, no? In base a quello che ci viene richiesto dalla sala operativa di Kabul. La maggior parte delle volte controlliamo il settore est, che è quello, diciamo, più pianeggiante, più pericoloso. Allora, hanno iniziato il movimento, vuol dire che gli uomini appiedati si sono ricongiunti in gergo link up alla pattuglia. Sono due mezzi, uno che apre, che sta davanti, gli uomini appiedati nel mezzo, e un altro mezzo, l'altro lince, che chiude. Ma per garantire ancora più sicurezza, Andrea e Antonino sono scesi armati e vanno a vedere da vicino la situazione, giusto, Puff? Giusto, giusto. Ed è tutto da Cristina Balotelli, che vi parla dalla Valle di Musai.